più della vita. Ha scritto questa frase più che eloquente su un biglietto lasciato ai suoi cari il 72enne di Pozzuoli in provincia di Napoli, che afflitto da tempo per aver ricevuto una cartella esattoriale da 15.000 euro, oggi si è sparato un colpo di pistola calibro 6.35 legalmente detenuta alla testa ed ora è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Loreto Mare di Napoli. E il figlio ha chiesto ai carabinieri come l'uomo avesse avuto la cartella mesi fa e forse, non riuscendo a farvi fronte, abbia cercato oggi il suicidio. È stato trovato nella sua officina dove riparava barche in via Fedro, nella zona di Mergellina del capoluogo partenopeo. A spaventare i familiari dell'uomo il fatto che non rispondesse al telefono cellulare e che da alcune ore non si avessero sue notizie. Poi il ritrovamento e la corsa disperata in ospedale. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a proposito di questo fatto di cronaca, ha detto: bisogna creare reti di solidarietà verso chi soffre di più, ma stare attenti a meccanismi psicologici pericolosi. La petroliera Enrica Lexi è salpata alle 23 ora locale, 19.30 in Italia, dopo aver ottenuto gli ultimi permessi dalle autorità doganali e portuali di Kochi. È la nave dove erano in servizio i due marò italiani arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. Versano in gravi condizioni 5 dei 17 feriti dell'incidente avvenuto questa mattina alle 8 sulla 13 in direzione Padova. Il pullman su cui viaggiavano si è ribaltato, 5 i morti. A bordo c'erano 23 persone, erano carabinieri in congedo e familiari che stavano raggiungendo Jesolo, dove era in programma il raduno nazionale dei carabinieri. L'autista del pullman è illeso e fra le ipotesi c'è quella di un colpo di sonno, un malore o un guasto all'autobus. L'uomo sotto stato di shock è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarebbe pronto il decreto ministeriale sugli esodati, che potrebbe essere varato nei prossimi giorni. Riguarderebbe al momento solo 65.000 persone. Sugli altri si aprirà il confronto il 9 maggio. Duro commento della segretaria della CGIL Camusso, secondo la quale il governo rischia di fare lo stesso errore fatto con le pensioni. C'è una convocazione la prossima settimana. Fare un decreto il giorno prima vuol dire che non c'è volontà di relazioni con le forze sociali, ha detto la Camusso, che ha però confermato la presenza al tavolo. Stasera nel nord-est, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, si festeggia la Notte Verde con varie iniziative. Laura Bettini, tra poco sei in diretta con uno speciale che racconterà proprio questa serata. Sì, proprio così, ci sono una ventina di comuni del nord-est, quindi sparsi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che stanno festeggiando già la grande festa dell'economia sostenibile. Noi la seguiremo da qui in diretta con i protagonisti, ma anche con gli ascoltatori attraverso gli sms, come sempre 349-238-6666, ma anche attraverso il telefono per chi vuole partecipare in viva voce, 800-24-0024, per dirci cosa ne pensate degli argomenti che tratteremo, ma anche che cosa fate voi per l'ambiente. Già in molti ci hanno scritto e molti altri attendiamo nelle prossime due ore. Grazie Laura, allora tra poco con lo speciale. Io vi saluto e vi do appuntamento con il giornale radio alle 22. Sei bloccato nel traffico da qualche imprevisto? Tadan! Questo è il momento di 89 24 24. Le indico subito un percorso alternativo. Semplice, comodo, veloce. Info e costi 89 24 24.it. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre. Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. MBA Cuoa, lo sviluppo di competenze manageriali e imprenditoriali. La scelta di qualità che fa la differenza per gestire le nuove sfide con successo. www.mbacuoa.it. Gli speciali di Radio 24. Buonasera da Laura Bettini, benvenuti quindi alla Notte Verde di Radio 24, ma anche quella del, anzi anche e soprattutto quella del Nord-Est, visto che, come dicevamo, una ventina di comuni del Nord-Est del paese, Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, stanno celebrando già la più grande festa della Green Economy, l'economia sostenibile. Noi la seguiamo da qui in diretta, avremo in collegamento i protagonisti dalle diverse città in cui si sta svolgendo la festa. Come dicevamo nel corso di GR24, microfono aperto agli ascoltatori, 800 24 00 24 per chi vuole dirci che cosa fa lui per l'ambiente, lui o lei, oppure 349 238 6666 per gli sms. Poi c'è anche l'indirizzo l'altropianeta@radio24.it per chi vuole scrivere. L'altro pianeta è la trasmissione che ogni sabato alle 15 vi parla di ambiente e sostenibilità qui su Radio 24. Ci hanno già scritto nei giorni scorsi alcuni, giusto per farvi qualche esempio, ho sentito di questa iniziativa interessante, mi piacerebbe che qualcosa del genere si realizzasse al sud. Come cittadino italiano, scrive invece Massimo, ho imparato da questa crisi economica a sperimentare un modello di consumo e di stile di vita più rispettoso delle risorse del pianeta. Anna Maria invece, promuovo il tema presso la comunità islamica, ovvero occuparsi dell'ambiente in cui viviamo è anche un dovere religioso. Questi alcuni appunto degli ascoltatori, poi via via leggeremo le loro email. Ma che cos'è questa bella iniziativa? Si intuisce dal titolo, ma insomma più precisamente che cos'è la Notte Verde del Nord-Est? È un'iniziativa che fa parte del Festival Città Impresa che è iniziato il 2 maggio, che a Radio 24 abbiamo seguito, sicuramente lo avrete sentito, un festival che si concluderà domani, e questa notte è una notte speciale che nasce dalla constatazione che il Nord-Est in particolare, ma non solo, perché riguarda anche tante altre aree del paese, ha bisogno di una trasformazione del sistema territorio, delle imprese, per vincere la sfida della competitività. Per quello parliamo anche di economia, e la può vincere questa sfida attraverso l'economia verde, la green economy in tutte le sue declinazioni. Così ci ha spiegato Filiberto Zovico, che è il direttore del Festival Città Impresa. Evidentemente stanno cambiando tutti i parametri di produzione che abbiamo conosciuto fino ad oggi. La green economy è ormai una filosofia e un'impostazione di fondo che tutti i paesi del mondo sviluppato hanno abbracciato. Quindi o si compete su quel terreno, oppure diciamo il rischio è quello di essere tagliati fuori dai grandi mercati. Se lei vede tutte le aziende che vincono diciamo con un fortissimo contenuto green, che non è solo una moda ma è proprio un approccio di stile di vita, e quindi diciamo noi organizziamo questa enorme manifestazione che porterà in piazza più di 200.000 persone. Stimiamo che sia la più grande manifestazione europea dedicata alla green economy, proprio per dare un segnale che un territorio avanzato qual è il nord-est di questo paese, se vuole contribuire allo sviluppo del paese, deve spingersi sui terreni appunto più avanzati. Una versione di Come Together dei Manzella Quartet, che sono stati tra l'altro anche nostri ospiti proprio qui in radio, hanno suonato l'anno scorso. È una delle band più ecologiche d'Italia, suonano strumenti che hanno creato con le loro mani, che sono stati recuperati da disparati oggetti di uso domestico, e quindi alla fine ne fanno insomma un bidon basso, uno stendofono, il battifono e così via, a seconda appunto dell'origine di questi oggetti. Perché vi abbiamo messo questa musica? Perché questa notte verde vuole essere anche un momento di festa, di celebrazione, di gioia, non solo un momento di riflessione sulla economia, che tra l'altro appunto non passa tempi meravigliosi in questo momento, che può trovare certamente una via d'uscita attraverso la green economy, ma insomma la notte verde vuole essere anche un momento di divertimento. Buonasera Silva Menetto da Venezia, buonasera Silva. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Venezia ha organizzato come sua tradizione una notte particolarmente allegra, no? Di musica e intrattenimento. Tu dove sei? Io in questo momento sto aggirandomi un po' per la città per vedere che cosa succede. Vi dico subito che da Mestre, arrivando da Mestre a Venezia, in Piazzale Roma, nella porta della città, c'è un ragazzo che suona col pianoforte, proprio a livello di performance, sta suonando tranquillamente il suo pianoforte. Ho passato vari campi, devo dire che la notte verde è cominciata in realtà nel primo pomeriggio, quindi c'è stato già tutta una lunga serie di spettacoli, soprattutto per i bambini oggi pomeriggio. In vari campi cittadini sono aperti anche i musei, tra l'altro, e si è molto puntato a quella che sarà la sensibilità ambientale di questi bambini, perché ci sono stati molti laboratori che riguardavano il recupero, il riciclo degli oggetti per creare dei giocattoli. Ci sono stati spettacoli di burattini, adesso è un'ora un po' tranquilla perché si è cominciato a pensare a come si svolgerà questa notte verde, che andrà avanti sicuramente oltre mezzanotte. Sicuramente, ma noi purtroppo ci fermeremo alle 23, quindi non potremo seguirla fino in fondo, ti auguriamo di divertirti ovviamente. È partito il corteo acqueo, che sicuramente è una delle cose che ci caratterizza di più. Tutti quelli che volevano partecipare con una barca a remi sono partiti, l'appuntamento poi è verso le 10 di questa sera in Pescheria Rialto, dove si concluderà la festa ovviamente anche con musica, e ci sarà anche spazio per la buona cucina. Silva, venendo a cose più meno divertenti, un po' più serie, oggi nel pomeriggio tu hai seguito un incontro che è stato dedicato a Porto Marghera, una nota dolente però dell'area, quindi progetti di recupero di questo che è stato un polo industriale famosissimo, importantissimo nel paese, ma che adesso appunto ha bisogno di un recupero, ha bisogno di sviluppo, possibilmente sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e ovviamente dia occupazione. Che cos'è Porto Marghera per voi veneziani? Certamente Laura, hai ragione, infatti quel dibattito che si è tenuto oggi alla presenza del ministro Clini ha toccato un po' il nervo scoperto di questa realtà che viviamo. Marghera è voluta significare per tantissimo tempo non solo il più grande polo industriale europeo, ma il centro vivo e vitale di tutto quello che dava occupazione tra Mestre e Marghera, e anche Venezia chiaramente, anche molto indotto, e quindi pensate che da 32.000 dipendenti che si sono toccati negli anni di maggior sviluppo, si sta parlando adesso di una riduzione a 11.000 circa dipendenti per quanto riguarda Porto Marghera. Qual è il futuro green, diciamo, il futuro non che svelarci vorremmo? Troppo, che poi dopo ne riparliamo più approfonditamente, dici giusto qualche possibilità. Diciamo che le prospettive sono queste, si è parlato della possibilità di inserire in quella che era una volta una zona industriale una chimica verde, la possibilità di guardare a Porto Marghera come quello che è successo un po' per Porto Torres, a una chimica più evoluta, a una chimica pulita, perché sicuramente ci sono le capacità, ci sono le persone che sono capaci di affrontare questi argomenti, e altrimenti cambiando totalmente si può pensare ad altri insediamenti che possono per esempio puntare sulle nanotecnologie o sulle start-up che vivono all'interno del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Mestre, e che potrebbero trovare proprio in Marghera industrie in grado di produrre le loro invenzioni, e questo può essere anche una possibilità, certo. Un laboratorio, perché no? Il Vega per esempio sta pensando di usare anche questa possibilità per pensare a un prototipo di ciclo di depurazione dell'acqua a partire dalla falda fino all'acqua che ci arriva proprio dai rubinetti, e questo può essere una cosa molto interessante. Dunque, allora io farei una piccola interruzione adesso per far sentire agli ascoltatori le informazioni sul traffico. Abbiamo già degli ascoltatori in linea invece che ci vogliono dire cosa intendono fare per proteggere e salvaguardare il nostro pianeta, quindi spazio e la viabilità, torniamo con gli ascoltatori e ovviamente con Porto Marghera. Strade in diretta. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Traffico intenso rallentato anche a Roma sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e via Togliatti verso la tangenziale est. E a Roma è in corso una manifestazione con corteo da piazzale dei Partigiani verso piazza Bocca della Verità. Il percorso segue viale delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, piazza Porta San Paolo, viale Ventino e via dei Cerchi. È prevista la deviazione e limitazione di 24 linee di bus. La manifestazione si concluderà intorno alle 23 di questa stasera. Si anticipa per questa notte la chiusura per lavori della 14 Adriatica dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Senigallia e Ancona Nord in entrambe le direzioni. Chiusa anche la 3 Salerno-Reggio Calabria tra Vibo Valentia e Rosarno in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera sino alle 18 di domani. Infine tra le 22 e le 6 previsti lavori anche sul raccordo anulare di Roma che sarà chiuso tra la Tiburtina e la 24 in carreggiata interna. Ed è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Abbiamo già la prima ascoltatrice in linea, Jenny dalla provincia di Udine. Buonasera. Sì, buonasera, salve. Voleva dirci cosa fare per proteggere il pianeta, giusto? Sì, beh, io parlo sinceramente solo per me stessa nel mio piccolo. Io ho una casetta e cerco di riciclare tutta l'acqua piovana possibile. Che è già una buona attività. Per cosa la usa questa acqua piovana? Dunque, innanzitutto, avendo una casetta, c'è un piccolo orticello e quindi viene continuamente tutta l'estate innaffiato con quest'acqua che io riciclo dalla grondaia. E poi i fiori, tutti i fiori sui davanzali, o lavaggio della macchina, per esempio. Benissimo, e la sua è una prima telefonata che ci fa molto piacere ricevere, perché tra l'altro appunto parla di acqua piovana, quindi di un'attività di riciclo e recupero che non è così diffusa, ma che invece dovremmo fare di più. Silva Menetto, sei in collegamento ancora con noi da Venezia. Ringraziamo l'ascoltatrice Jenny dalla provincia di Udine e farei sentire adesso le dichiarazioni del ministro Clini, che tu ricordavi oggi è stato a Venezia proprio questo convegno per il futuro di Porto Marghera. Sentiamo che cosa ti ha detto. Abbiamo firmato il 16 aprile l'accordo per Porto Marghera col Comune di Venezia, con la provincia, con la regione, con il magistrato alle acque, con il porto. Il 15 maggio mi pare ci sarà un'altra importante firma perché l'ENI metterà a disposizione una vasta area che potrebbe essere destinata a reindustrializzazione sostenibile. E io credo che se ce la facciamo riusciamo a dare una prospettiva giusta alla crescita e alla ripresa di questo territorio. Infrastrutture molto, molto importanti, posizione strategica, grande tradizione industriale, competenze soprattutto per la presenza di due importanti università. Credo che ci siano tutte le condizioni per far crescere nuove attività industriali che abbiano il segno dell'innovazione tecnologica, della valorizzazione in modo efficiente delle risorse naturali, delle risorse energetiche, e credo che potrebbe anche essere un'area molto interessante per lo sviluppo di nuove tecnologie nelle fonti rinnovabili. E così il ministro dell'Ambiente Clini. Ricordo che appunto è sempre aperto il numero verde per le vostre telefonate, ma anche quello dei messaggi 349-238-6666. Tra l'altro ci farebbe anche molto piacere sentire il parere dei veneziani sui progetti, le possibilità di recupero di Porto Marghera. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin del Comune di Venezia. Molto, molto lieta di averla in onda, assessore. Buonasera, grazie a voi. Farò del mio meglio per non chiamarla Bettini, come mi chiamo io. Questa sera siamo tra Bettini e Bettini, insomma. Perché mi scappa ogni tanto, l'ho già fatto diverse volte parlando con i colleghi e quindi temo di farlo anche in diretta, ma insomma speriamo di no. In ogni caso l'assessore è Bettin, lo sappiano gli ascoltatori. Come le è parso il ministro, insomma, determinato sul futuro di Porto Marghera? Davvero stiamo andando nella direzione giusta? Sì, guardi, noi sono alcuni mesi che lavoriamo col ministro da quando si è insediato, e anche contando sulla sua vecchia conoscenza del territorio e in particolare della realtà di Porto Marghera, confidavamo nella possibilità di sbloccare la situazione che era effettivamente ristagnante da diversi anni. Questo motiva anche un po' la diffidenza o comunque la cautela di molti in città di fronte persino a questo accordo che riapre un po' la partita, perché molti sono scottati da come è andata negli anni scorsi, anzi negli scorsi lustri, perché il primo accordo è della fine degli anni 90 e il secondo dell'inizio degli anni 2000, e quindi sono passati 10-12 anni che hanno portato solo alcuni dei risultati sperabili. A cosa è dovuto questo lungo ritardo, secondo lei, principalmente? È dovuto alla burocratizzazione, alla farraginosità delle procedure, alla centralizzazione anche di tutta la procedura sia istruttoria che decisoria relativa ai singoli progetti di bonifica. Stiamo parlando di un accordo che verte soprattutto sulla questione della restituzione di terreni inquinati, che sono enormi, di estensione enorme, quindi terreno molto prezioso nella realtà del nord-est, molto satura, diciamo, di infrastrutture, di strutture, che ha bisogno di terreni nuovi su cui investire, ma il cui investimento è impedito sostanzialmente dai costi molto elevati, dai tempi molto lunghi e molto incerti soprattutto. Con questo accordo entrano finalmente i rappresentanti del territorio nella segreteria tecnica, nella plancia di coordinamento e di gestione quotidiana delle procedure, si tagliano molti passaggi che prima costringevano attese lunghissime, di anni addirittura, e quindi si definiscono a monte i criteri in base ai quali intervenire in modo da saltare diversi passaggi. Questo dovrebbe consentire una maggiore velocità, e poi non si chiede una bonifica generalizzata ma finalizzata al tipo di intervento. È evidente che se io devo fare una zona urbana da ex zona industriale, diciamo così, interverrò in modo radicale e impegnativo che se dovessi su quel terreno, che ne so, farne una piattaforma logistica o reindustrializzarlo. Quindi, mentre prima era tutto omologato e quindi con grandi costi sia economici potenziali sia in termini di tempo. Senta, lei ricordava prima che nonostante appunto il punto a cui siamo arrivati adesso con gli appuntamenti che ha ricordato prima il ministro Clini, resta una certa perplessità, titubanza. Che cosa realisticamente ci si può aspettare anche da un punto di vista dei tempi? Ma adesso il passaggio successivo è la scrittura del regolamento di attuazione di questo accordo, che dovremmo concludere entro 60 giorni, entro 90 giorni, e quindi direi che a partire da dopo l'estate dovremmo essere pronti per far funzionare tutto questo meccanismo. Nel frattempo però abbiamo già conseguito un altro risultato, che è un accordo con l'ENI che metterà a disposizione 120 ettari di aree da mettere subito in campo per chi volesse intervenire a Marghera, e quindi trovarsi già di procedure semplificate oltre che di terreni disponibili. Quindi capisco benissimo, sono anche nostre le cautele, per non dire le diffidenze, perché siamo anche noi come rappresentanti della città i primi a essere stati, come si dice, scottati da un accordo che non ha funzionato negli anni scorsi. Però appunto, anche confidando nella collaborazione nuova tra istituzioni, quindi con la provincia, con la regione e con il ministero stesso, pensiamo di dover insistere, di dover ragionevolmente immaginare che una novità si sia veramente prodotta. Assessore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro un buon proseguimento di serata. A Venezia ce n'è questa sera da fare, quindi tanta roba, per chi può esca. E vorrei invece far intervenire Ludovico da Milano, perché ci raccontasse delle invenzioni che lui ha ma che non riesce a finanziare. È un punto sul quale Silva Menetto ci può dire qualcosa, perché ha sentito parlare oggi il ministro dell'ambiente proprio sulle difficoltà di finanziamento delle idee delle imprese verdi. Ludovico, buonasera. Sì, buonasera. Ci racconti la sua vicenda. Corrado Clini, il ministro, lo conosco da diversi anni e l'ho incontrato proprio... Vada al punto però, sennò poi la devo tagliare. Io, come dicevo, ho 75 invenzioni sulle energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile. Avevo anche contattato Vega a Venezia se era disposto a aiutarmi a finanziare un mio progetto. Ma non riesce a trovare modo di realizzare questo obiettivo? Quello è il problema in Italia, che mancano i finanziamenti, le banche non finanziano, non aiutano chi ha le buone idee. Questa crisi esiste proprio per questo motivo, per il cosiddetto credit crunch e perché le banche non aiutano, non finanziano. I venture capital non esistono e anche se uno ha l'idea più bella del mondo non la può realizzare e dimostrare che l'idea è valida ed è costretto a emigrare, andarsene all'estero. Allora, lei ci sta pensando a questo? Le chiedo questo. Non ce la faccio più a stare qua. Io sto facendo gli ultimi sforzi, siccome mi hanno tolto un tumore, sto risolvendo i miei ultimi problemi di salute e poi parto. Ho partecipato al fondo SID di Finlandia. Adesso io le auguro ovviamente di guarire e di risolvere i suoi problemi di salute prima di tutto. Però le chiedo di ascoltare anche quello che ci dirà adesso Silva Menetto. Silva. Sì, cosa diceva il ministro su questi punti? Proprio a questo proposito, il ministro devo dire che effettivamente dà un po' ragione al nostro ascoltatore perché ha detto che in Europa non c'è assolutamente questa difficoltà delle banche a finanziare progetti green, purtroppo per noi. Il problema sembra essere per la maggior parte italiano. Comunque per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente, proprio oggi Clini ha detto che è stata aperta una linea di credito allo 0,5% di 600 milioni di euro, ovviamente è solo una partenza, è specifica per piccole e medie imprese che operano nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'edilizia ecosostenibile. Poi un'altra iniziativa del Ministero è quella di pensare in breve tempo ad incentivi fiscali perché che possono andare a tutte quelle aziende che si occupano di protezione ambientale e di energia pulita e che assumono dei giovani. Quindi le idee all'interno del Ministero ci sono, l'importante è che vengano messe in pratica in poco tempo. Certo, grazie a Silva Menetto, ti lasciamo, magari ci risentiamo più tardi con altri collegamenti da Venezia per parlare di cose appunto di allegria, di musica e di performance nelle strade. Vorrei a questo punto introdurre, perché so che ci ha seguito in questi ultimi minuti, il prossimo ospite. L'avvocato Massimo Malvestio, buonasera. Buonasera. Editorialista del Corriere del Veneto, autore di Malagestio, perché i veneti stanno tornando poveri e il suo libro riguarda molto anche i temi proprio del recupero e del disastro ambientale che è stato compiuto sul territorio veneto, in particolare negli anni del grande sviluppo industriale, no? Per la verità sì. La mia critica non va a quegli anni, perché gli anni del primo sviluppo industriale, secondo la mia opinione, avevano una grande scriminante. Il Veneto era una regione di emigrazione, fino agli anni 70 dalla provincia di Treviso si emigrava in massa, per cui io ho giustificato nel mio libro quella espansione. Quella che secondo me è assolutamente ingiustificabile è l'espansione degli ultimi 10-15 anni, dove si è avuta una espansione notevolissima sia di immobili residenziali sia di immobili industriali al di fuori di qualsiasi logica di necessità, deturpando un patrimonio qual è il nostro patrimonio paesaggistico, che oltre ad essere ovviamente un bene prezioso per tutti è un fatto a mio avviso molto più identitario di tante altre bandiere che vengono agitate. Le dico soltanto che in molti comuni ci sono appartamenti nuovi e sfitti che per essere riempiti la popolazione dovrebbe crescere del 25%. È quindi evidente che si è costruito per costruire sulla base di una serie di fattori distorsivi che descrivo nel libro. Senta, noi adesso abbiamo una piccola interruzione. Io le chiedo per favore di restare con noi perché vorrei leggerle un messaggio al 349-238-6666 che riguarda Porto Marghera e che vorrei commentare con lei. Quindi piccola pausa e poi ci ritroviamo. Eurospin per te, la spesa intelligente. Bentrovati, ecco la domanda di oggi. Come garantite il costo inferiore rispetto ad altri supermercati? Risponde Silvia Maccacaro, responsabile marketing Eurospin. Eurospin si propone come low cost nella distribuzione alimentare. La missione di Eurospin è di offrire tutti i giorni dell'anno un assortimento mirato di prodotti di qualità e di sicura freschezza a prezzi convenienti. Per questo curiamo tutto nei minimi particolari, tagliando il superfluo e ispirandoci ai principi della semplicità ed essenzialità, come l'esposizione produzione in cartone dei prodotti a punto vendita, un'efficientissima filiera logistica, l'assenza di prodotti di marca e i bassissimi costi di pubblicità. Questo ci consente di ridurre i costi e proporre prezzi bassi, garantendo sempre la qualità dei prodotti e del servizio e offrendo una spesa davvero intelligente ai nostri clienti. Vai su radio24.it, entra in Eurospin per te e mandaci la tua domanda. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La perturbazione che ha raggiunto il nostro paese domani porterà nuvole quasi ovunque, con piogge che bagneranno gran parte del centro-nord e la Sardegna, mentre al sud, nonostante le nubi, si farà sentire ancora un po' di caldo. Domani, dunque, avremo una prevalenza di tempo bello soltanto in Calabria e Sicilia, nuvoloso, molto nuvoloso in tutto il resto del paese, con piogge sparse al nord, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Le piogge a tratti saranno anche intense, a carattere di rovescio temporale, soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche e Sardegna. Temperature in calo nelle regioni centrali, pressoché invariate nel resto d'Italia. Ancora un po' di caldo al sud, soprattutto in Calabria e Sicilia. Ventoso per libeccio sulle regioni del centro-nord. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Gli speciali di Radio 24. Don't drink coffee, I take tea, my dear. Lie my toast down on the side. Sempre la eco band preferita, Manzella Quartet, questa volta con Englishman in New York, sempre suonata con i loro strumenti, bidon basso, lo stendofono, la washboard e così via. Vi ricordo che per questa notte verde del Nord-Est che stiamo vivendo qui su Radio 24 potete mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure telefonare all'800 24 00 24. In collegamento con noi in questo momento c'è Massimo Malvestio, editorialista del Corriere del Veneto, autore anche di Malagestio. Ne stavamo parlando poco fa, appunto, la costruzione forsennata tra i grandi problemi degli ultimi 10 anni nel Veneto, ma purtroppo non solo. I dati sono assai sconfortanti anche per la Lombardia, ad esempio, per molte altre regioni del nord. Massimo Malvestio, le volevo leggere il messaggio che ci è arrivato a proposito di Porto Marghera. Non dovrà essere per nulla industriale, nemmeno tecnologicamente avanzato, ma sola natura. Dovrà riprendere spazio la fragilità dell'ambiente lagunare. Questo scrive un nostro ascoltatore. Sarebbe bello, ma credo fondamentalmente impossibile tornare indietro su certe aree, non solo Porto Marghera, ma anche sulle altre di cui lei ci parlava prima. Beh, questo del tornare indietro è un problema particolarmente diffuso in tutto il territorio veneto. A Porto Marghera, per la verità, l'industrializzazione risale ancora al Conte Volpi e quindi risale addirittura all'ideazione alla prima guerra mondiale, a quel periodo, e poi fu sviluppata negli anni 20, e quindi ci troviamo di fronte a un insediamento molto antico. Tra l'altro Porto Marghera secondo me è un posto, a dispetto della sua reputazione, meraviglioso, dove io francamente condivido l'idea dell'ascoltatore. Lì ci sono i problemi che ha descritto l'assessore Bettin, però io credo che in prospettiva un po' alla volta cercare di recuperare questi tipi di insediamenti sia una priorità nella nostra regione. Il problema è che in tutto il resto della regione, dove gli insediamenti sono molto recenti, questi recuperi significano una perdita immediata o riconoscere una perdita immediata di ricchezza che ha dimensioni veramente devastanti, perché si tratta di capire che si è costruito troppo, si sono costruite cose del tutto inutili. Questo senz'altro, e appunto i dati che lei citava prima non fanno altro che dimostrare l'inutilità di certe costruzioni, però appunto ricordo anche, a detta di molti esperti, se qualcuno potesse ammettere il suo errore, se si decidesse di tornare indietro, il terreno non sarebbe mai più quello di prima, perché una volta che si è realizzata un'abitazione, una fabbrica, un capannone, quelli che abbiamo visti sorgere nelle nostre regioni negli ultimi anni, non si riesce più a riavere la terra fertile del Veneto, della Lombardia, che poi sono tra le terre più fertili di tutta Europa. Sì, questo è purtroppo un dato di fatto. Nel mio libro, francamente, mi occupo abbastanza poco di questo problema. Del recupero, certo, sì, lei era più sulle origini del problema. Mi sono occupato delle dinamiche finanziarie che sono alla base di questa scelta, cioè del fatto che i comuni hanno, con un commercio simoniaco, l'ho chiamato io, venduto la potestà di pianificazione che serviva per lo scopo opposto, per fare una cassa di breve termine. Si è cercato di incassare gli oneri di urbanizzazione che poi sono stati impiegati in modo del tutto improprio grazie a una legislazione nazionale improvvida che ha allargato sempre di più le possibilità di utilizzo. C'è stata una bolla creditizia che ha consentito tutto questo, c'è stata anche una legislazione nazionale tributaria che paradossalmente l'ha favorito, come la legge Tremonti, che io ho sempre criticato dalle colonne del Corriere Veneto, non tanto nella sua impostazione di fondo quanto proprio per il fatto che indiscriminatamente si consentiva qualsiasi bene di investimento veniva ad avere rilevanza ai fini della riduzione del carico d'imposta, e quindi il risultato è stato che si sono costruiti capannoni da tutte le parti al solo fine di portare a casa un vantaggio d'imposta. Certo, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Abbiamo affrontato il tema dell'edilizia insostenibile e tra pochissimo passiamo a tutt'altro argomento, sempre però Notte Verde del Nord-Est. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, oh, I'm an alien. E andiamo a Vicenza, Pietro Delotto, direttore generale di Confartigianato di Vicenza. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie per l'ospitalità. Futuro elettrizzante, questo è il titolo del vostro progetto per promuovere la diffusione del viaggiare a emissioni zero. È un titolo elettrizzante, no? Effervescente, carino, molto complimenti insomma per questa scelta. Che cosa vi proponete però? Guardi, un anno e mezzo fa abbiamo ritenuto che l'essere un soggetto sociale, oltre che un rappresentante di interessi economici della piccola impresa, fosse un naturale sviluppo di una nuova forma di associazionismo. Una grande associazione come la nostra, 20.000 imprese, deve anche avere il dovere di contribuire, per la parte che ci riguarda, a una visione diversa di territorio, di economia, di modelli di sviluppo. E quindi abbiamo iniziato a proporre a tutto il territorio, noi abbiamo 121 comuni nella provincia, e una sorta di patto, ma non un pezzo di carta, qualcosa di concreto, una declinazione reale e realistica in un territorio che vede la meccanica, la meccatronica, l'elettromeccanica delle basi solide nella nostra provincia, un progetto comune da presentare in modo molto ambizioso, devo ammetterlo, agli organi superiori, alla provincia, alla regione, al Ministero dell'Ambiente, alla Commissione Europea, e abbiamo fissato un accordo con 84 comuni, amministrazioni comunali su 121, 86% della popolazione, per sviluppare una forma di mobilità sostenibile, in questo caso elettrica. E questo ovviamente vi ha portato a dover considerare tutta una serie di problemi, diciamo, connessi alla mobilità elettrica, perché non è che serve solo l'auto elettrica, no? Servono le colonnine per la ricarica, serve una serie di sostegni alla produzione dell'energia elettrica, ad esempio in loco, per cui vi siete dedicati a tutto questo arco. Assolutamente sì, abbiamo sviluppato 10 linee di azione con un sottoinsieme di progetti concreti che abbiamo già iniziato a presentare anche in collaborazione con università multinazionali dei vari player mondiali del settore, con le amministrazioni locali nei vari settori, dalla elaborazione di un master plan per la mobilità sostenibile alla realizzazione di concrete forme di infrastrutturazione del territorio, alla formulazione di nuovi metodi di gestione della mobilità pubblica a favore del cittadino, delle imprese, ma anche delle amministrazioni. Le faccio un caso: la nostra associazione ha 500 dipendenti, sa quanti chilometri percorrono i miei colleghi per venire ogni giorno al lavoro? No, non voglio fare scommesse, me lo dica lei. 2 milioni. oltre 2 milioni di chilometri solamente per spostarsi da casa al posto di lavoro. Credo che questo sia quanto di più antieconomico e di più ecologico, sostenibile ci può essere. Quindi forme di incentivazione a modelli nuovi anche di spostamento. Pensiamo alle merci che, oltre che alle persone, devono entrare nelle città. Sì. Nelle città. Entrare in una città come Vicenza, come Bassano, come tutti i nostri piccoli centri d'Italia, comporta divieti, pagamento di sovratasse, per esempio i bollini blu famosi, in un territorio che è purtroppo ai minimi livelli di qualità dell'aria, per esempio. E allora abbiamo pensato che un'organizzazione come la nostra poteva essere promotore di un'iniziativa trasversale dove saltano gli schemi, dove non c'è più piccola impresa e grande impresa, dove le reti di impresa possono funzionare, dove salta il meccanismo pubblico-privato e dove l'importante è avere idee comuni condivise. E abbiamo per esempio immaginato che i parcheggi dei parcheggi blu a pagamento potevano essere evitati se tutti i comuni adottassero un unico permesso, un unico contrassegno che abbiamo proposto a tutti i comuni per evitare il pagamento nel caso si entrasse nei centri storici, nei parcheggi a pagamento, in modo invece gratuito. E quindi, senta, io adesso però le voglio chiedere, lei conosce Andrea Zonta? Assolutamente sì. Assolutamente sì, no, allora adesso diamo il benvenuto anche all'assessore di Bassano del Grappa. E lo salutiamo. Benvenuto, assessore. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera, direttore. Abbiamo voluto anche un testimone, diciamo, no, tra coloro che stanno cercando di mettere in pratica tutte queste linee di cui lei ci ha parlato. E a noi è piaciuto molto il fatto che nel presentare, diciamo, le sue iniziative, di cui tra poco l'assessore ci dirà, si fosse scritto per passare dall'autocentrismo a qualcos'altro, ad esempio il bicicentrismo, no? Basta con queste città che sono tutte costruite e pensate attorno alle auto e non attorno ai pedoni, alle biciclette e così via. Come si fa, assessore, a togliere di mezzo l'autocentrismo? Voi come state pensando di farlo? Beh, noi abbiamo innanzitutto, siamo partiti con un'iniziativa con un piano della mobilità sostenibile, che è un piano che va oltre il piano urbano del traffico ed è un piano che si occupa non solo di mobilità veicolare ma anche di mobilità ciclabile e di pedoni. Fra l'altro io vi sto parlando in questo momento da Schio, dove stiamo cercando di chiudere con i comuni di Schio, Treviso, San Donà, Padova e Venezia una rete di bike sharing, cioè il cittadino con una singola tessera potrà utilizzare fra qualche mese tutti i bike sharing di queste città. Credo che una delle cose che noi dobbiamo fare è sicuramente quella di non creare delle alternative di veicoli, ma creare delle possibilità diverse, e mi allaccio al discorso che probabilmente l'avrà fatto il direttore di Confartigianato, con cui oggi Confartigianato Vicenza abbiamo fatto questa iniziativa anche a Bassano, ed è quella di cercare di creare dei punti di bike sharing, di car sharing elettrici in questo caso, cioè car sharing che dal punto di vista ambientale ci aiutano, e poter dare a ognuno la possibilità di entrare nelle nostre città in modo sostenibile, in modo rispettoso dell'ambiente, in modo che si riesca ad ottenere delle città più vivibili dal punto di vista della respirabilità e anche dal punto di vista dei rumori e del movimento e di tutto ciò che crea il movimento veicolare. Pertanto credo che quello che io sto facendo qui stasera si debba allacciare anche dal punto di vista del car sharing nelle nostre città, nelle nostre province, nelle nostre regioni, per permettere a tutti di poter utilizzare un'auto elettrica che possa essere possa essere utilizzata per esempio dalla mia città che è Bassano, andare verso un capoluogo di provincia che è Vicenza, lasciarla lì, prendere una bici, spostarsi in altri modi, cioè creare un modo alternativo, perché noi stiamo utilizzando che consenta quanti, ad esempio a tutti i dipendenti di cui ci parlava prima, di Confartigianato, di non fare quei 2 milioni di chilometri con auto private, possibilmente magari alimentate a benzina, gasolio e così via. Ma che permetta a tutti i dipendenti, dipendenti di comuni, dipendenti delle ditte private, persone che per lavoro si spostano da una città all'altra, cioè consenta a tutti di poter utilizzare un sistema che è ambientalmente sostenibile, ma che soprattutto limita anche i costi per chi le utilizza, perché pensiamo a cosa costa un'automobile ad ogni persona che la possiede, e poi la possibilità invece di avere delle automobili che sono messe a disposizione e che io le utilizzo quando mi servono e le utilizzano altri quando a me non servono, credo che sia anche dal punto di vista economico e finanziario un risparmio non indifferente. Sicuramente. Questo, a proposito di viabilità, però la devo interrompere perché dobbiamo dare le informazioni sul traffico a tutti coloro che l'auto elettrica, il bike sharing, cioè, non ce l'hanno o comunque ce l'hanno ma hanno bisogno di sapere come vanno le cose sulle strade e le autostrade italiane. Strade in diretta. Sulla 25 Torano-Pescara si formano code per un incidente tra Prato La Pedigna sul Mona e Cocullo in direzione della 24 Roma-Teramo. Ci sono rallentamenti in direzione opposta verso Pescara. Rallentamenti per traffico intenso, siamo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Traffico intenso anche sulla 3, la Napoli-Salerno, con coda in uscita a Castellammare di Stabia verso Salerno. Chiusa per lavori la 3 nel tratto Salerno-Reggio Calabria tra Vivo Valentia e Rosarno in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani. Questa notte chiusura per lavori della 14 Adriatica dalle 22:06 tra Senigallia e Ancona Nord in entrambe le direzioni. Infine tra le 22:06 previsti lavori anche sul grande raccordo anulare di Roma che sarà chiuso tra la Tiburtina e la 24 in carreggiata interna. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con la strada in diretta tra un'ora. Gli speciali di Radio 24. E torniamo quindi in diretta per parlare ancora di mobilità elettrica, ma non solo, l'avete già sentito. Pietro Delotto con noi, direttore generale di Confartigianato Vicenza. Delotto, è molto bello questa integrazione di cui ci ha parlato l'assessore Zonta, quindi integrare non solo la mobilità elettrica di cui voi su cui voi state lavorando molto, ma anche con altri servizi, appunto, ad esempio quello del bike sharing. Assolutamente sì. Anche perché questo fa di voi un'area vasta e con obiettivi condivisi, che questo è ancora più bello forse. Ecco, io vorrei sottolineare un aspetto. Stamattina proprio con il ministro Clini abbiamo affrontato questo punto. Perché il ministro, lo diciamo agli ascoltatori, è stato un po' dappertutto, essendo un grande sostenitore di questa notte verde. Devo dire grazie per il grande sostegno che ci sta dando. Così come un grazie lo dobbiamo anche alla Commissione europea che ci sta sostenendo in questo. Però volevo sottolineare un punto. Tutti gli esperimenti, anche le infrastrutturazioni un po' simboliche che si stanno facendo nelle nostre città, hanno sempre il carattere della città metropolitana come elemento di sperimentazione. Quando pensiamo a invece territori, ai nostri territori, come la nostra provincia, dobbiamo pensare a una città diffusa, dove la città è composta però da 121 municipalità. Questo significa per noi dover assolutamente condividere un progetto strategico comune, perché significherebbe in brevissimo tempo che anche le migliori idee porterebbero al caos. Cosa significherebbe, pensate, per un'azienda, per un cittadino, per un'impresa che dovesse spostarsi tra comuni che hanno, nel caso della nostra provincia 121 regolamenti diversi tra loro. Beh, adesso diciamocelo, per adesso è così, cioè tutti si spostano su comuni, adesso non così vicini, ma comunque con modi di ragionare diversi, Milano da Torino, Torino da Roma e così via. Se mi permette, questo è il salto di qualità del nostro progetto. Quando abbiamo proposto in queste sedi questo laboratorio di mobilità sostenibile per una città diffusa, l'abbiamo chiamato, Soft Mobility Lab, è proprio il superamento di questo, cioè una condivisione non più di una città ma di un territorio che condivide metodi, processi e anche però realizzazioni. Delotto, io adesso la devo. Sì, ma infatti io mi auguro che voi riusciate perfettamente a centrare tutti gli obiettivi. Io le do appuntamento alla trasmissione che conduco settimanalmente, L'altro pianeta, lo ricordava all'inizio, per riprendere questo argomento, magari tra un po', quando i lavori saranno andati ulteriormente avanti. Siete già a buon punto, ma insomma, tanto di aggiornamenti ne avremo. Tengo in linea Sandro Venzo, che ci dirà come i cittadini stanno testando le auto elettriche a Bassano del Grappa, quindi come è andata questa sperimentazione, perché vorrei prima fare il collegamento con Beniamino da Bolzano, un ascoltatore, ha chiamato l'800 24 00 24. Beniamino, buonasera. Buonasera. È ancora lì con noi, ha avuto molta pazienza, la ringrazio. No, io intanto ho fatto quasi 5 chilometri, quasi una città fantastica. Ma va in bici, quindi, meno male. In bici. Bravo, quindi, bravo. Saranno contenti i vicentini con cui parlavamo prima del fatto che le bici siano così diffuse e che magari l'area larga possa arrivare fino a Bolzano, molto larga in questo caso sarebbe. No, è una cosa meravigliosa, anche perché non piove. No, io dicevo, se veniamo alla questione per la quale ho telefonato, che come dire, spezzo una lancia a favore della mia terra, della provincia autonoma di Bolzano. Purtroppo le province autonome spesso vengono viste un po' come enti straprivilegiati, eccetera, eccetera, però fa piacere anche rilevare per me, che qui abito e lavoro da sempre, come in una terra come la nostra parlare di denaro pubblico non significhi parlare di spartizioni fra controllori e controllati, ma a volte si tratta proprio di investire in cose che tornano utili alla popolazione, che tornano utili all'industria, come per esempio nel caso del nostro TIS. Il TIS è un ente qui di Bolzano che con finanziamento parzialmente pubblico dà una mano a chi ha buone idee per porre i primi passi nell'industrializzazione delle proprie idee. Quindi pensavo a quell'ascoltatore che aveva chiamato prima, ad esempio, che aveva tante idee, tanti brevetti, ma non sapeva come metterli come in pratica. Cioè, adesso io non posso dire che chiunque può venire al TIS di Bolzano e fare quello che diciamo che non riesce a fare finanziandosi in altro modo, però è una forma di impiego del denaro pubblico che, se penso alle realtà di Oltre Brenner o della Germania, quando si sente parlare della vicinanza fra industria e università, la ricerca e poi immediatamente l'industria interessata anche alla ricerca. Qui da noi, nel nostro piccolo, c'è proprio questo ente che appunto permette, uno va lì con la buona idea, la propone, c'è una commissione che valuta e ti dà una chance, come certo, fare i primi passi per mettere una base all'industrializzazione di una buona idea, ecco. La ringrazio Beniamino e le auguro un buon proseguimento della sua biciclettata nella sua ciclabile, che è bella e sicura. E andrei a questo punto a Bassano del Grappa. Sandro Venzo, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, adesso siamo lieti di ospitarla. Lei è un imprenditore, anche vicepresidente nazionale del gruppo dei giovani di Confartigianato, ma questa sera si occupa di spiegare e far presente ai cittadini come sono queste auto elettriche, no? Guarda, io mi sono piacevolmente divertito oggi a provarle, ne ho provate 3 o 4 e la cosa veramente sensazionale è stata dell'assoluta mancanza di rumori, quindi lei è praticamente all'interno di quest'auto che le prestazioni sono esattamente come un'auto di Italia, perché quando vai a fondo con l'acceleratore la macchina non si perde, anzi ce l'hai veramente che prende e scatta, e la cosa fantastica è proprio l'assoluto silenzio che potevo percepire guidandola, quindi veramente godersi il centro storico con addirittura provata una con l'autoradio accesa, l'ho spenta per godermi veramente l'assoluta mancanza di rumori, quindi veramente piacevole. Veramente piacevole, è un silenzio di cui hanno goduto anche i bassanesi, perché oggi hanno visto il loro centro storico invaso dalle auto, ma auto non rumorose, saranno dovuti stare un pochino più attenti rispetto al solito. Abbiamo un ultimo minutino, io ringrazio Sandro Venzo e ringrazio anche l'assessore di Bassano Andrea Zonta, che è rimasto in collegamento con noi ma non abbiamo più tempo per farlo riintervenire. Vorrei dare nell'ultimo minutino di questa prima ora di trasmissione, poi proseguiremo fino alle 23, a Sara Cantavalle, che è in collegamento con noi da Padova, perché abbiamo molto parlato di car sharing e so che a Padova oggi siete stati in piazza proprio per mostrarlo e parlarne con i cittadini, no? Sì, buonasera a tutti. Sì, esattamente, abbiamo esposto l'auto della nostra flotta accanto a Lega Ambiente, con la quale abbiamo di recente stipulato una convenzione, per mostrare ai cittadini un esempio di mobilità sostenibile che permette quindi di avere le comodità di un'auto, però diciamo riuscendo a ridurre l'inquinamento urbano tramite un utilizzo razionale dei mezzi, quindi in ottica anche di integrazione dei mezzi con i mezzi pubblici. E i cittadini come hanno risposto? Con interesse, con così insomma, sì, chiedendo come fare? Con curiosità, nel senso che comunque il servizio è partito lo scorso settembre, per cui possiamo dire che siamo ancora in una fase di start-up, però sicuramente si è manifestato un interesse soprattutto a capire esattamente che cosa comporta il servizio, quali sono i costi, la logistica e quant'altro, quindi siamo fiduciosi che nei prossimi mesi comunque avremo anche un riscontro maggiore da parte della cittadinanza. Grazie mille davvero a Sara Cantavalle, che abbiamo acciuffato, è stata tra coloro che ci hanno scritto per segnalare cosa fanno loro per l'ambiente. Lei lavora per il servizio di car sharing a Padova e quindi noi l'abbiamo chiamata. Vi ricordo 349-238-6666 per gli sms, 800-24-0024, linea al GR e poi ancora avanti con la Notte Verde del Nord-Est. BNL Corporate Live. Le domande delle aziende e dei professionisti. Le risposte degli esperti di BNL, gruppo BNP Paribas. Come creare valore e far crescere la propria impresa? Come ottenere supporto per un investimento all'estero? Come gestire e ottimizzare i flussi di cassa? Come ridurre i rischi? Vai su radio24.it, entra nella sezione BNL Corporate Live e mandaci la tua domanda. Oggi ricordati di dare una carezza a tuo figlio, una rosa a tua moglie e uno schiaffo al carovita. Nuovo Opel Corsa GPL Tech. Dall'ingegneria tedesca Opel, la tecnologia più efficiente. Un pieno a soli 29 euro e nessuna manutenzione straordinaria. E oggi il GPL Tech è gratis. E in più, fino a 2.000 euro di extra bonus Opel sulle vetture in pronta consegna. Nuovo Opel Corsa GPL Tech. Dai uno schiaffo al carovita. Per i viaggi di lavoro ti sposti in aereo? Sottoscrivi Blue Beats, l'accordo di incentivazione di Alitalia, Air France, KLM e Delta. Con Blue Beats la tua azienda accumula Blue Credits per acquistare altri biglietti senza limitazione di posto. Ad esempio, se voli a Pechino con un collega in business class, la tua azienda accumula 400 Blue Credits, validi per l'acquisto di un biglietto da 400 euro. E il viaggiatore continua ad accumulare miglia. Blue Beats. E voli risparmiando. Scopri di più sui siti delle compagnie. Ehi, deficiente, dico a te. Sì, a te che stai ascoltando la radio. Deficiente, mi ascolti? Deficiente. Deficiente? Guarda che dico a te, deficiente, che non sei altro. Noi di Time LED non ti vendiamo nulla, tranne l'opportunità di diventare efficiente a costo zero. Con il sistema di illuminazione a LED NED System risparmi fino al 70% sulla bolletta. Non fare il deficiente, diventa efficiente. Scopri come su timeled.it. Base chiama astronave X17. Nello spazio ho sempre bruciore di stomaco. Saranno i pasti in pillole. Mastica due compresse di digestivo Antonetto. Sto vedendo le stelle. Ma sei proprio fuori dal mondo. Mastica che ti passa il bruciore. Se talvolta soffrite di bruciori di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il digestivo Antonetto. Le compresse di digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Il digestivo Antonetto agisce presto. Camper? Plenair, la tua rivista, ti regala il Portolano, la guida preziosa per pianificare le tappe di viaggi e weekend. Con il Portolano ogni luogo diventa una meta, ogni approdo è una scoperta. Plenair ti dice come andare, il Portolano ti dice dove. Hai il camper? Non fargli mancare il Portolano, con la mappa legata e le coordinate GPS delle aree segnalate. Chiedi Plenair in edicola. È il settimo.